Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Decima puntata. Una notte con Durdles. Avvicinandosi alla casa non finita di Durdles, un buco nelle mura della città, e vedendo una luce all'interno, Jack Jasper, senza far rumore, avanza tra le lapidi, le statue e gli ammassi di pietra del cortile, già sfiorati qua e là obliquamente dalla luna che sorge. «Ehi, Durdles!» La luce si muove e Durdles compare sulla porta col lume in mano. Sembrerebbe essersi dato una ripulita con l'aiuto di bottiglia, brocca e bicchiere, dato che non si vede altro strumento purificatore nella nuda stanza di mattoni con le travi a vista e il soffitto senza intonaco in cui introduce il visitatore. «Siete pronto?» «Sono pronto, signor Jasper. Una spedizione davvero inspiegabile». Che Durdles, abitualmente occupato a vagare tra vecchie tombe e rovine come un demone depredatore dei morti, esca furtivo per scalare, tuffarsi e vagabondare senza scopo, non è affatto straordinario. Ma che il maestro del coro, chiunque altro, ritenga un valido impiego del tempo, lo stare con lui e studiare gli effetti lunari in sua compagnia, è una faccenda ben diversa. Una spedizione davvero inspiegabile, dunque. Attento a quel cumulo vicino al cancello. Cos'è? Calce. Jasper si ferma e aspetta che lo raggiunga, dato che indugia alle sue spalle. Quella si chiama calce viva? Sì, dice Durdles. Viva abbastanza da mangiarti le scarpe. Con una buona rimescolata, viva abbastanza da mangiarti le ossa. Proseguono, oltrepassando subito dopo le finestre rosse del viaggiatore, ed emergono al chiaro di luna nella vigna dei monaci. Attraversatela arrivano alla canonica, che per la maggior parte rimane in ombra finché la luna non salga più alta nel cielo. Il suono di una porta che si chiude colpisce le loro orecchie e due uomini escono di casa. Sono Chris Sparkle e Neville. Jasper, con uno strano, subitaneo sorriso in faccia, poggia il palmo della mano sul petto di Durdles, fermandolo dove si trova. All'estremità della canonica, l'ombra è fitta. A quell'estremità, inoltre, c'è il resto di un vecchio muricciolo alto fino al petto, unico segno di confine rimasto di quello che un tempo era un giardino e ora è la via maestra. Jasper e Durdles avrebbero girato intorno al muro un attimo dopo, ma per quell'arresto improvviso si fermano dietro. «Quei due stanno oziando», sussurra Jasper. «Tra un po' escono al chiaro di luna. Stiamocene quieti, se no finisce che ci trattengono o vengono con noi o sa Dio che altro». Durdles annuisce e si mette a masticare pezzetti di cibo che prende dal fagotto. Jasper incrocia le braccia sopra il muricciolo, ci appoggia il mento e osserva. Non tiene in nessun conto il canonico, ma sorveglia Neville, come se avesse l'occhio sul grilletto di un fucile carico e lo avesse sotto tiro e stesse per fare fuoco. La sua faccia esprime un tale potere distruttivo che persino Durdles smette di masticare e lo guarda col boccone non masticato nella guancia. Nel frattempo, Chris Sparkle e Neville passeggiano avanti e indietro, conversando, quieti. Ciò che dicono non può essere udito consecutivamente, ma Jasper ha già distinto il suo nome più di una volta. «Oggi è il primo giorno della settimana», è l'osservazione di Chris Sparkle, percepibile nitidamente mentre si girano. «E l'ultimo è la vigilia di Natale». «Fidatevi di me, signore». L'eco favorevole si perde mentre i due si avvicinano e il suono delle frasi diventa confuso. La parola fiducia frantumata dall'eco, ma ancora ricomponibile, è pronunciata da Chris Sparkle. Mentre si accostano ancora di più, si sente questo frammento di risposta. Non ancora meritata, ma lo sarà. Mentre si allontanano, Jasper di nuovo sente il suo nome, associato alle parole di Chris Sparkle. Ricordate, ho detto che garantivo io per voi. Poi il suono delle frasi ridiventa confuso, mentre loro si fermano e dopo un po' Neville fa dei gesti solenni. Quando riprendono a camminare, si vede Chris Sparkle che guarda il cielo e indica qualcosa davanti a sé. Poi lentamente scompaiono, uscendo al chiaro di luna dall'altra estremità della canonica. Jasper si muove solo dopo che se ne sono andati. Ma allora si gira verso Durdles e scoppia in una fragorosa risata. Durdles, che ha tuttora quel qualcosa di sospeso nella guancia e che non vede nulla di cui ridere, lo fissa finché Jasper china il viso sulle braccia per esaurire la risata. Poi Durdles ingoia il qualcosa come disperatamente rassegnato all'indigestione. In quei cantucci appartati c'è poco movimento quando fa buio. Ce n'è abbastanza poco anche in pieno giorno, ma di notte non ce n'è quasi per niente. Chiedi ai primi 100 cittadini di Cloisterham, incontrati a caso a mezzogiorno, se credono agli spettri, e ti risponderanno di no. Ma mettili di fronte alla scelta, di notte, tra questi luoghi paurosi e la via dei negozi, e vedrai che 99 su 100 preferiscono il giro più lungo e la strada più frequentata. La causa non dipende da qualche superstizione locale connessa al posto. Anche se una misteriosa signora con un bimbo in braccio e una corda al collo è stata vista fluttuare l'intorno da parecchi testimoni evanescenti come lei, ma va cercata nell'innato ritrarsi della polvere che respira dalla polvere che non respira più. E anche nell'ampiamente diffusa e altrettanto ampiamente disconosciuta riflessione, ammesso che i morti in una qualunque circostanza si rendano visibili ai vivi, sono questi i luoghi più adatti allo scopo e io, il vivo, me ne vado più in fretta che posso. Sicché, quando Jasper e Durdles si fermano per guardarsi intorno, prima di scendere nella cripta, da un portoncino laterale di cui il secondo ha la chiave, davanti a loro l'intera distesa illuminata dalla luna è totalmente deserta. Si potrebbe pensare che la casa di Jasper argini la marea della vita. Entrano chiudendosi dentro a chiave, discendono i gradini sconnessi e si trovano giù nella cripta. La lanterna non serve, poiché la luna entra dalle finestre a sesto acuto, prive di vetri, i cui telai vuoti disegnano forme sul pavimento. I pesanti pilastri che sostengono la volta generano masse di ombra nera, divise da sentieri di luce. Camminano su e giù per questi sentieri, mentre Durdles discorre dei vecchi compari che ancora conta di dissotterrare. E colpisce con la mano un muro dove ritiene una famiglia al completo sia murata e interrata, proprio come se fosse un loro intimo amico. Per il momento, la natura taciturna di Durdles è sconfitta dalla bottiglia impagliata di Jasper che circola liberamente, vale a dire che il suo contenuto entra liberamente nella circolazione di Durdles, mentre Jasper si limita una sola volta a sciacquarsi la bocca e a sputare la risciacquatura. Devono salire sulla grande torre. Sui gradini che portano alla cattedrale, Durdles si ferma a far scorta di fiato. I gradini sono molto bui, ma dal buio possono vedere i sentieri di luce che hanno attraversato. Durdles si siede su un gradino, Jasper su un altro. L'odore, proveniente dalla bottiglia impagliata, presto annuncia che è stato tolto il tappo. La cosa non è verificabile tramite il senso della vista, dato che non si distinguono l'un l'altro, e tuttavia nel parlare si rivolgono l'uno all'altro come se le facce potessero comunicare tra loro. «Roba coi fiocchi, signor Jasper. Lo spero, l'ho comprata apposta. Mica si fanno vedere i compari, signor Jasper? Se lo facessero, il mondo sarebbe ben più confuso di com'è. Beh, sì, le cose si mischierebbero un bel po', acconsente Durdles, riflettendo come se l'idea degli spettri non gli si fosse mai presentata sotto una luce disturbante, né sul piano domestico né su quello cronologico. Ma secondo voi ci stanno anche fantasmi di altre cose? Non dico di uomini e donne. Quali cose? Suoni. Che suoni? Grida. Che grida? Si aggiustano sedie? No, urla. Adesso vi racconto. Aspettate un momento che sistemo la bottiglia, che a questo punto è palesemente stappata e riattappata. Eccoci, così va bene. L'anno scorso, di questi tempi, solo qualche giorno dopo, avevo fatto quello che è giusto in tempo di festa, nel senso che gli avevo dato il benvenuto come si merita, quando i ragazzi mi si sono appiccicati dietro peggio che mai. Alla fine ce l'ho fatta a seminarli e sono entrato qua dentro. E qua mi sono addormentato. E che cos'è che mi ha svegliato? Il fantasma di un grido. Il fantasma di un solo terrificante urlo. Un urlo, seguito dal fantasma dell'ululato di un cane. Un lungo, triste, ululato pieno di dolore. Come fanno i cani quando muore qualcuno. L'anno scorso è stata questa la mia vigilia di Natale. Cosa volete dire? È la brusca e si direbbe inferocita risposta. Voglio dire che ho chiesto in giro da tutte le parti e che non ci stava un orecchio vivente, tranne il mio, che l'aveva sentito quel grido o quell'ululato. Sicché dico che erano fantasmi tutte e due, anche se non ho mica capito perché sono venuti da me. Vi facevo un diverso tipo d'uomo, dice Jasper sprezzante. Eppure io, risponde con l'abituale compostezza. Ma intanto è a me che mi hanno scelto. Jasper si è alzato di colpo nel chiedergli cosa intenda e ora dice: muoviamoci, qua si gela, andate avanti voi. Durdles segue, non particolarmente fermo sulle gambe. Apre la porta in cima alla scala con la chiave già usata prima ed emerge a livello della cattedrale, in un passaggio al lato del presbiterio. Qui la luna è di nuovo talmente luminosa che i colori della vetrata più vicina gli si proiettano in faccia. L'aspetto dell'ignaro Durdles, che tiene aperta la porta perché il compagno lo segua come uscendo dalla tomba, è piuttosto spaventoso, con una striscia rossa che gli attraversa il viso e una chiazza gialla sulla fronte. Ma lui sostiene impassibile la minuziosa ispezione del compagno, per quanto prolungata, mentre questi si fruga in tasca alla ricerca della chiave che gli è stata affidata e che aprirà il cancello di ferro per consentir loro di arrivare alla scala della grande torre. Presto le scale si fanno più strette e ripide e il soffio dell'aria notturna li investe. Infine, lasciando la lanterna dietro un gradino, poiché quassù soffia impetuoso il vento, guardano Cloisterham giù in basso, bella a vedersi al chiaro di luna. Le dimore diroccate dei morti e i loro santuari alla base della torre, i tetti di tegole rosse dei vivi ammorbidite dal muschio, il fiume che esce serpeggiando dalla foschia all'orizzonte come fosse quella la sua sorgente e palpita, inquieto, sapendo di essere ormai vicino al mare. Ancora una volta, che spedizione inspiegabile questa. Jasper, sempre silenzioso nei suoi movimenti senza un'apparente ragione, contempla la scena e soprattutto quella parte più quieta che la cattedrale copre d'ombra. Ma con la stessa curiosità contempla Durdles e Durdles è consapevole a tratti degli occhi che lo sorvegliano. Raggiunto il cancello di ferro e richiuso la chiave, ma non prima che Durdles sia capitombolato due volte e si sia ferito al sopracciglio una volta, ridiscendono nella cripta con l'intenzione di uscire da dove sono entrati. Ma tornando tra i sentieri di luce, Durdles diviene così incerto quanto a piedi e lingua che a metà cade e a metà si butta giù accanto a uno dei pesanti pilastri e con voce indistinta implora il compagno di lasciargli chiudere gli occhi per 40 secondi. «Se volete o dovete farlo», risponde Jasper, «qui non vi lascio. Chiudeteli e io intanto cammino su e giù». Durdles si addormenta di colpo e mentre dorme fa un sogno. Non è un granché come sogno, tenendo conto della vasta estensione della terra dei sogni e delle sue magnifiche creazioni. È degno di nota solo per l'inusuale irrequietezza e l'inusuale realismo. Sogna di giacere lì, addormentato, e tuttavia di contare i passi del suo compagno che cammina in su e giù. Sogna che i passi si dileguano nella lontananza del tempo e dello spazio, e che qualcosa lo tocca, e che qualcosa gli cade di mano. Poi qualcosa tintinna e si muove a tentoni, e lui sogna di rimanere solo, così a lungo che i sentieri di luce prendono nuove direzioni mentre la luna avanza nel suo corso. Dopo un vuoto passa un sogno di disagio a causa del freddo e Dolorante apre gli occhi su sentieri di luce, cambiati davvero come nel sogno, e su Jasper che ci cammina in mezzo battendo mani e piedi. «Ehi là!» grida Durdles di colpo, inspiegabilmente allarmato. «Finalmente sveglio!» dice Jasper avvicinandosi. «Lo sapete che i vostri 40 secondi sono diventati migliaia?» «No». «Eppure è così. Che ora è?» «Ascoltate il rintocco delle campane. Battono i 4:15 e poi risuona la campana grande». «Le 2!» grida Durdles, tirandosi su a fatica. «Ma perché non mi avete svegliato, signor Jasper?» «Ci ho provato. Tanto valeva che cercassi di svegliare i morti, quella vostra famigliola di morti laggiù nell'angolo». «Mi avete toccato?» «Toccato? Altro che! Vi ho scosso un bel po'». Quando Durdles ricorda quel qualcosa che lo tocca in sogno, guarda il pavimento e vede la chiave della cripta in terra, vicino a dove era disteso. «Ti ho lasciata cadere, eh?» dice raccogliendola e ricordando quella parte del sogno. Mentre riconquista la posizione eretta, o la posizione all'incirca eretta che gli è abituale, di nuovo nota che il suo compagno lo sorveglia. «Allora?» dice Jasper sorridendo. «Siete pronto? Prego, senza fretta». «Aspettate che sistemo il fagotto, signor Jasper, e ci sono». Mentre gli rifà il nodo, ancora una volta nota l'attenta osservazione cui è sottoposto. «Di cosa mi sospettate, signor Jasper?» chiede con alcolico fastidio. «Se ci sta qualcuno che ha sospetti su Durdles, può anche tirarli fuori». «Non ho sospetti su di voi, mio buon Durdles, ma ho il sospetto che la bottiglia contenesse qualcosa di più forte di quello che pensavamo entrambi. E ho il sospetto», aggiunge Jasper, prendendola da terra e rovesciandola, «che sia vuota». Durdles ride accondiscendente, continuando a ridacchiare come deplorando le sue scarse capacità di bevitore. Brancola fino alla porta e la apre con la chiave. Escono entrambi e Durdles richiude, mettendosi la chiave in tasca. «Mille grazie per questa notte così strana e interessante», dice Jasper dandogli la mano. «Ce la fate a trovare la via di casa?» «Direi. Buonanotte, signor Jasper». Stanno per prendere la via di casa entrambi quando un fischio acuto lacera il silenzio e risuona l'incomprensibile urlata tiritera. «Lallallera, lallallera, alle 10 della sera, lallallera, lallallà, se lo becco lo vedrà, lallallera, lallallò, ecco il sasso arriva mo». Subito dopo, una fitta sassaiuola scoppietta contro il muro della cattedrale e il ripugnante ragazzetto compare di fronte a loro, ballando al chiaro di luna. «Cosa? Quel demonio di bambino stava qua di guardia?» grida Jasper, in preda alla furia esplosa così in fretta e con tale violenza da far sembrare lui stesso un demonio di uomo. «Gli cavo il sangue a quel maledetto moccioso». Incurante del lancio di sassi che più volte lo colpiscono, si slancia su Deputy, lo afferra per la collottola e cerca di tirarselo dietro. ma non è un compito facile con Deputy. Con diabolico intuito, sul suo punto di forza, non appena è agguantato per il collo, tira su le gambe, costringendo l'assalitore a impiccarlo, per così dire, e rantola e si contorce e si dimena come già in preda all'agonia da strangolamento. Jasper non può fare altro che mollarlo. Istantaneamente si riprende, indietreggia verso Durdles e grida al suo assalitore, digrignando l'ampio varco che ha in bocca con rabbia e cattiveria. Io a te ti acceco, giuro su Dio, ti caccio gli occhi a sassate, giuro su Dio, possa schiattare se non ti cavo gli occhi. Contemporaneamente si sposta dietro la schiena di Durdles e si mostra ora da un lato, ora dall'altro, ringhiando contro Jasper, pronto in caso di assalto a schizzar via in ogni possibile direzione curvilinea e, in caso di atterramento, malgrado tutto, a giacere urlando: «Forza, colpiscimi adesso che sono a terra! Avanti, fallo!» «Controllatevi!» raccomanda Durdles facendogli scudo. «Se n'è stato in agguato tutto il tempo!» «E invece no, bugiardo!» risponde Deputy. «Sono uscito adesso per andarmene a zonzo e ti vedo voi due che uscite dalla cattedrale. Allora portalo a casa», replica Jasper con ferocia, controllandosi a fatica, «e spariscimi dagli occhi». Deputy inizia a cacciare a casa a sassate il rispettabile gentiluomo, come fosse un bue recalcitrante. Jasper se ne va a casa rimuginando. E così, come tutto giunge a una fine, anche l'inspiegabile spedizione giunge alla fine, per il momento. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.